si parla di un'arma incendiaria, diciamo, della principale, del principale ordigno incendiario che viene utilizzato in carri di guerra. È vietato da alcune convenzioni, solo che molti stati non hanno mai firmato queste convenzioni, tra cui gli Stati Uniti e Israele, che infatti ne fanno largo uso impunemente. Diciamo che l'effetto è devastante, perché in pratica sono degli ordigni che si aprono a ombrello, diffondendo delle specie di, come dire, delle pallette, no? Incendiate di questo fosforo, che incendia a contatto con l'ossigeno. E questo crea una devastazione e crea un ampissimo raggio di incendi, insomma, laddove cade non si spegne e continua a bruciare per ore finché è a contatto con l'ossigeno. Il problema, oltre insomma all'effetto diretto, è che questi pezzi di fosforo poi finiscono per crearsi come una crosta o a contatto con la terra, sì, è come se venissero disinnescati, ma appena qualcuno li tocca, appena rientrano in contatto con l'ossigeno, si riaccendono. E questo l'abbiamo verificato proprio a Gaza, dove in mezzo alla sabbia potevi trovare questi pezzetti di fosforo bianco, e appena i bambini stessi con dei bastoncini li toccavano, appena rientrava, diciamo, la materia entrava in contatto con l'ossigeno, riniziava a bruciare. Il problema principale è come trattare, se vieni, a parte, diciamo, l'incendio che provoca, ma in diversi casi proprio le persone venivano colpite direttamente da questi frammenti di fosforo, il che crea delle ustioni bestiali. Io intervistai nell'ospedale Shifa a Gaza alcune persone che erano state colpite dal fosforo bianco, e gli stessi medici facevano fatica a trovare il modo per curarle, perché provocavano delle piaghe molto molto difficili da rimarginare. Questo, diciamo, è un po' l'effetto di questa arma, che viene comunque usata purtroppo in modo massiccio durante i conflitti. Ecco, in particolare incendiandosi con l'ossigeno a contatto col corpo, poi brucia i liquidi, quindi le ustioni si formano. Esattamente, crea delle ustioni profonde e continua a bruciare, anche perché è difficile disinnescarla. Questa arma, ufficialmente, dicevamo, un'arma incendiaria che viene usata come tracciamento, in teoria. Più che tracciamento, come illuminazione, ok? Perché, come dicevo, si apre a ombrello, si accende, quindi crea una forte fonte luminosa, che quindi teoricamente viene utilizzata per illuminare il campo di battaglia e rendere visibili, diciamo, gli obiettivi, però apposta, senza considerare che quando poi cade a terra, continuando a bruciare a lungo, in pratica appicca degli incendi che non sono poi controllabili, perché sono su una grande area. L'hanno sparato sulle scuole, hanno sparato sugli ospedali, cioè quest'arma è devastante, e sono tanti gli eserciti che la usano impunemente. Proprio su questo, appunto, le convenzioni che citavamo prima imporrebbero di non utilizzarla nei centri abitati. Assolutamente sì, sarebbero tollerate solamente come illuminazione in campi di battaglia aperti. Questo chiaramente non avviene, perché ormai tutti quanti i teatri di guerra purtroppo sono in aree metropolitane piene di civili, e quindi questo dettaglio viene, insomma, bypassato, aggirato, e viene usata quest'arma in modo massiccio. Non è l'unica arma letale e non convenzionale che viene utilizzata, ma è una delle peggiori. Nel caso quindi quest'arma venisse utilizzata, i suoi effetti sarebbero facilmente anche riscontrabili? Assolutamente sì, perché, diciamo, il momento in cui esplode in aria, diciamo che c'è una sorta di proiettile che viene lanciato e poi ha una seconda esplosione durante la quale si allarga, raggiera, produce un fumo molto bianco, molto evidente, e poi scende a pioggia, come se fossero tanti piccoli proiettili che cadono lentamente. È molto facile vederne l'effetto quando viene lanciato, quindi io penso, insomma, se usciranno delle fotografie, dei video che ne documentano il lancio, non sarà difficile riscontrarne la presenza.